24 mattino di Alessandro Milan. 7:20 minuti, siamo qui, cari ascoltatori, a concludere la settimana di 24 mattino col nostro alpino Peter Bescapè in regia. Siamo anche su Twitter, @AlinoMilan, sono io, @24mattino la trasmissione, siamo su Facebook. Poi potete ascoltarci sempre su radio24.it, il nostro sito, potete riascoltarci, potete ascoltarci in diretta, insomma, siamo interattivi, eh? Allora, oggi avremo ospite il sindaco di Civitavecchia, nonché parlamentare, una doppia carica incompatibile che sta creando un po' di imbarazzo all'onorevole Pietro Tidei. Ci spiegherà perché non si è ancora dimesso. Parleremo ancora di terremoto e parleremo di aiuti, come aiutare le popolazioni terremotate, la proposta che forse era tra le più sensate di quelle, tra le strampalate avanzate, quella di destinare le tranche dei fondi destinati ai partiti ai terremotati. Si può, non si può fare, ne parleremo alle 8:30. Ora andiamo a vedere che cosa ci propongono i quotidiani in edicola. Venerdì 1 giugno, uno sguardo ai titoli con la relazione del governatore di Banca Italia Visco, che prende praticamente tutte le prime pagine dei giornali nelle aperture. Il Sole 24 Ore, Visco, meno tasse, più Europa. Per il Corriere della Sera, troppe tasse, non si cresce. Repubblica, Visco, tagliare spesa e tasse. La Stampa, tasse, l'allarme di Visco. Il Giornale, tasse vere, aiuti finti. Il Messaggero, il richiamo di Visco, troppe tasse. Per l'Unità, l'Emilia che resiste. E per trovare qualche apertura diversa, il Libero, vendetta dei PM su Buffon. Il Fatto Quotidiano, la carica delle liste civiche. Mentre il Manifesto, scosse al lavoro. Questo è il titolo d'apertura. Per Avvenire, scosse senza tregua, speranze di rinascita. È il titolo di apertura. Io, come detto, avremo ospite il neosindaco di Civitavecchia, Pietro Tidei, che è anche parlamentare, una doppia carica incompatibile, deve lasciare uno dei due posti, lascerà presumibilmente il Parlamento, visto che è stato eletto sindaco di Civitavecchia nelle ultime amministrative, ma non lo fa. E oggi il Corriere della Sera, con Alessandro Trocino, racconta questa storia, pagina 21, Tidei ad Inolfi, la poltrona per due divide il PD. Ad Inolfi è colui che subentrerebbe a Tidei nel momento in cui Tidei dovesse lasciare il Parlamento. Il sindaco di Civitavecchia però non lascia la Camera e così Ad Inolfi attacca Bersani. Deputato del PD e da poco sindaco di Civitavecchia, situazione incompatibile per Pietro Tidei, che però traccheggia, aspetta che la procedura faccia il suo corso. E dunque situazione d'attesa per Mario Ad Inolfi, che aspetta impaziente di subentrare e accusa il PD di non volerlo. Una situazione difficile, una grana per il PD. Tidei in un primo tempo spiega che non si dimette perché è preoccupato dalla situazione del tribunale di Civitavecchia e dalla questione dei rifiuti, temi che devono essere affrontati dalla Camera dove lui è. C'è anche un suo collega di partito, Andrea Sarubbi, che si è offerto di essere la sua longa manus alla Camera, incitandolo a lasciare. Niente da fare. Per ora Tidei non lascia. Peraltro, ieri si è presentato Tidei davanti al comitato che doveva decidere, che deve prendere una decisione sul comitato per le incompatibilità della Camera. Lui si è presentato, ma praticamente non c'era nessuno. C'era il presidente, c'era lui, Tidei, che tra l'altro fa parte anche della giunta, e due deputati. E alla fine seduta sospesa, rinviata a martedì, insomma una vicenda per cui tra l'altro Mario Ad Inolfi, colui che dovrebbe subentrare a Tidei, in maniera polemica dice: sono incredulo, Bersani ha detto tra l'altro che dovrà decidere il gruppo, invece la decisione spetta la Consulta, è una incompatibilità manifesta, si deve dimettere Tidei. Bersani si faccia spiegare da Saviano il rispetto della legge. Vabbè, questo graffio molto intenso di Mario Ad Inolfi nei confronti di Bersani. Sapete la vicenda di Saviano e la possibile lista civica vicino al Partito Democratico. E quindi Ad Inolfi graffia il segretario del PD così: si faccia spiegare da Saviano la legalità. Vabbè, ma avremo ospite il senatore, l'onorevole Pietro Tirè, nonché sindaco di Civitavecchia, tra un'ora ci spiegherà il perché delle mancate dimissioni al momento. Intanto voglio segnalarvi due articoli sullo stesso tema, sul Fatto Quotidiano e sul Giornale, che rilanciano una decisione del sindaco Bloomberg di New York. Ieri Bloomberg ha convocato una conferenza stampa e Angela Vitaliano sul Fatto Quotidiano, a pagina 13, titola così: la guerra civile americana, una guerra civile contro le bevande gasate. Sapete che il tema c'è anche in Italia. Ieri Bloomberg ha detto di avere un nuovo bersaglio e da marzo vorrà vietare la vendita delle bevande gasate, soprattutto in contenitori che superino il mezzo litro. L'obiettivo è quello di educare o rieducare all'alimentazione corretta i newyorkesi, non solo, insomma una gran fetta degli americani, perché sapete che è una tendenza che c'è, no? E è una tendenza che suscita anche dibattiti molto ampi. Per esempio, su questo tema Carlo Lottieri, a pagina 20 del Giornale, interviene in maniera dura con un commento: fumo e Coca-Cola, nuovi divieti, siamo schiavi del moralismo di Stato, non se ne può più, scrive Lottieri. Ormai il moralismo di Stato sta veramente perdendo ogni senso della misura. Prima l'annuncio del Ministero della Sanità di una tassa di 3 centesimi sulle bevande gasate. Ieri la decisione del sindaco di New York di vietare le confezioni extra large di Coca-Cola. Ora riparte la guerra ai fumatori, che insieme agli automobilisti è ormai una delle categorie più vessate da questo Stato invadente, irrispettoso e impiccione. Non ho mai fumato, per quel poco che ne capisco ritengo che le sigarette facciano male alla salute, ma è una questione che riguarda ognuno di noi in scelte del tutto personali. Tra le tante declinazioni della libertà c'è anche quella di fumare, giocare al casinò, condurre una vita sessualmente sregolata, scalare le vette, praticare attività variamente pericolose ma che non mettono a rischio la vita altrui. Questo mi pare il punto cruciale. Nei paesi liberi il diritto è lì a impedire che le mie attività non invadano la sfera altrui, mentre nei paesi illiberali il potere utilizza la legislazione per indirizzare i comportamenti verso questo o quell'obiettivo, impedendoci di esistere in senso pieno. Insomma, questa decisione del sindaco di New York di voler mettere fuori legge le bibite maxi, per Carlo Lottieri riporta un po' al puritanesimo e al moralismo di Stato. È davvero così? Il dibattito c'è anche in Italia, visto che effettivamente dal Ministro della Salute c'è l'ipotesi che è stata avanzata di tassare con 3 centesimi le bevande gasate. No, rido perché cioè in America, non so, le vietano, in Italia cosa si fa? Le tassano. In Italia la parola magica è questa: quando non si vuole disincentivare qualcosa, uno dice le vieto. No, in Italia cosa fai? Ci metto una tassa, intanto così, no? Ci guadagniamo un po' di soldi noi dello Stato. Alle 7 e 34 minuti, eccoci qua allora cari ascoltatori. Ovviamente ancora tanti articoli dagli inviati dei giornali sul terremoto. La situazione in Emilia è davvero sempre difficile. Vi segnalo tra i tanti articoli l'intervista intanto che Claudia Fusani dell'Unità fa a pagina 7 al capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. Burocrazia snella e soldi in fretta, l'Emilia deve ripartire, questo è il titolo. Un Gabrielli che tra l'altro sulle polemiche del terremoto dice: gli errori sono sempre possibili, guai però a generalizzare perché ogni crollo è stata una storia a sé. La magistratura ha avviato le inchieste, io vorrei parlare anche del prezzo assurdo pagato da un territorio che voleva subito ripartire. Ho nella testa la voce di alcuni operai che hanno detto: meglio rischiare la vita che restare senza lavoro. Questo territorio ha una grande coesione sociale, non vede contrapposizioni tra imprenditori e operai, uniti da un unico comune denominatore, metteteci in condizioni di ripartire. Per quel che riguarda i fondi, dice Gabrielli, per il 2012 arriveranno 500 milioni dall'aumento su scala nazionale di 2 centesimi delle accise sulla benzina. Sono soldi pressoché certi. E beh, verrebbe da commentare, beh, certo che sono certi, visto che tutti gli italiani la benzina la fanno. E infatti Claudia Fusani scrive: sulle spalle dei cittadini però. Ma sentite la risposta di Gabrielli: gli italiani hanno già capito. Eh sì, io ho commentato su Twitter, hanno capito benissimo, cioè tocca mettere mano al portafogli, è chiarissimo, hanno proprio capito. Però insomma Gabrielli dice gli italiani hanno capito nel senso la necessità e il dovere di prendere questa decisione in nome della solidarietà anche nei confronti delle popolazioni colpite. Ma ecco, su questo ci sono un po' di dubbi se gli italiani hanno davvero capito la necessità di fare questo provvedimento come primo provvedimento, ma ci torneremo sulla questione della benzina perché ci sono ancora alcuni articoli interessanti. Intanto vi segnalo anche a pagina 3 del Corriere della Sera Giovanni Caprara parla e racconta la storia tutta italiana della cosiddetta mappa sismica, quella che sta creando polemiche perché si dice ma come la pianura padana non è mai rientrata nelle mappe sismiche con questo elevato rischio sismico e forse bisogna rivedere queste mappe che sono datate, ritardi e intoppi, le regioni non sono obbligate a valutare i rischi, questo mi ha molto colpito, lo trovate nel titolo, il punto di riferimento è proprio nel 2003 quando nasce la mappa che soprattutto dopo il terribile terremoto di San Giuliano di Puglia nel Molise nel 2002 con la scuola crollata, la morte di 27 bambini assieme alla loro maestra. E allora ci volle quel terremoto perché il documento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia venisse tirato fuori dai cassetti e un'ordinanza della Protezione Civile firmata dal Presidente del Consiglio lo trasformasse nella mappa che stabilisce la classificazione sismica del territorio. Per la verità, intanto in questa mappa c'è scritto che la zona colpita, l'area emiliana, è indicata con una probabilità intorno a una magnitudo massima di 6.2 della scala Richter e quindi quello che sta accadendo rientra nelle valutazioni allora espresse. Per cui non è vero che sia stata sottostimata la zona. In questa carta sismica viene indicato che c'è una ipotesi massima magnitudo 6.2 della scala Richter e dunque previsioni che si sono rivelate vere, giuste. Il problema rientra qui, la mappa formalmente accettata nel 2004 ha caratteristiche generali per tutto il territorio. Il documento offre i dati di base sul pericolo su cui si deve costruire il dettaglio e qui dovevano entrare in scena comuni e regioni i quali considerano le specifiche caratteristiche delle loro zone e aggiungono dei dati che personalizzano la carta nazionale descrivendo così la realtà in modo più preciso per quello che a loro appunto compete e si consente così la costruzione di regole costruttive rispondenti al tipo di ambiente in cui si agisce. Cioè io la traduco così. C'è un rischio, ma poi ognuno lo interpreta come vuole. E questa è una interpretazione tutta molto italiana. Che vuol dire se c'è un rischio e i dati però vengono personalizzati da comuni e regioni, descrivendo la realtà in modo più preciso per consentire la costruzione di regole costruttive rispondenti al tipo di ambiente in cui si agisce? Cioè vuol dire che ci sono delle regole che ognuno adatta a modo suo? Questi poi potrebbero essere i risultati. E infatti il titolo del Corriere, la mappa sismica è facoltativa. Questo è il titolo. Poi uno dice, avvengono le tragedie. Ci sono ancora polemiche sulla questione capannoni, indagine della procura. L'accusa per esempio del sindaco di Medolla, sono stati usati dei tecnici di fiducia evitando i comuni per far riaprire i capannoni, cioè delle autocertificazioni, tutto secondo la legge, ma dice il sindaco di Medolla forse si è andati un po' troppo in fretta, forse si è un po' esagerato. Ora ci sono dei sindaci che dicono in fabbrica non si entra, è tutto pericoloso. Per esempio l'ordine del sindaco di Mirandola, dall'altra parte c'è però il sistema produttivo che davvero lancia dei segnali di allarme a dire se noi non fatturiamo, se noi non andiamo avanti, se noi non ripartiamo, qui tutto un sistema produttivo rischia di crollare. C'è poi il tema davvero vergognoso, come sempre, degli sciacalli. Allora ci sono tante persone che stanno anche utilizzando questi momenti per seminare il panico, per spargere notizie false del tipo attenzione, fuggite tutti dalle case, sta arrivando una nuova scossa. Ovviamente sono tutte falsità, anche perché nessuno può prevedere l'arrivo di una scossa, ma soprattutto sono legate a sciacalli che sperano che le persone lascino le case per chi la casa ce l'ha e lasciano i propri averi per poi intervenire. Sciacalli che si, e su questo anche sta indagando la procura, ma Sciacalli anche sul tema industriale, guardate cosa denuncia per esempio alcuni produttori di parmigiano reggiano e di grana padano nella bassa Mantovana. Gli sciacalli del formaggio, lo trovate su Repubblica, pagina 6. Alcuni rappresentanti ci hanno offerto, dice per esempio Stefano Berni, che è direttore generale del consorzio Grana Padano, ci hanno offerto di comprare le forme ammaccate, sono migliaia, centinaia di migliaia le forme ammaccate, a 2 euro al chilo. Una forma di sciacallaggio clamoroso, 2 euro al chilo, appena. E tanto che lui ha risposto: a quella cifra piuttosto compro tutte le forme io e le brucio. C'è anche questo, cioè chi specula sul fatto, ok, volete vendere queste forme ammaccate, ve le compro a 2 euro al chilo. E purtroppo c'è da registrare dal punto di vista della cronaca anche questo, anche perché si aprano gli occhi e si stia molto molto attenti. Che dire, è la vigilia del 2 giugno, guardate, leggo solo quest'articolo sul Corriere della Sera, pagina 11, sulla parata del 2 giugno, si è veramente spesa anche troppa polemica per questa situazione veramente di dibattito quasi pagliaccesco. Insomma, sulla parata del 2 giugno, l'ultima è questa, sarà la parata sobria, le fanfare mute alla parata del 2 giugno. È il titolo del Corriere, pagina 11. La musica di bande e fanfare e i canti militari si interromperanno durante il passaggio davanti al palco presidenziale. Così ci si lava la coscienza, si fa la parata del 2 giugno, ma in maniera sobria. Potrà solo fare eccezione la brigata Sassari, che potrà continuare senza interruzione a cantare, perché l'inno della brigata Sassari parla di orgoglio e di dolore, e dunque loro possono cantare. Le altre fanfare mute, ma solo quando passano davanti al palco presidenziale. Ecco come sarà la sfilata. Vabbè, lasciamo il tema terremoto, l'economia. Ovviamente tutti i giornali aprono sulla relazione del direttore, del governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, alla sua prima relazione, ridurre tasse e spesa per rilanciare il paese. Così titola pagina 2 Il Sole 24 Ore. Rossella Bocciarelli racconta, come tutti i giornali, come Ignazio Visco abbia sottolineato proprio la troppa pressione fiscale, le troppe tasse in Italia come uno dei problemi che rallenta la crescita, e poi anche il taglio della spesa come un altro elemento su cui intervenire. Trovate comunque tutti i dettagli dell'intervento del governatore Ignazio Visco a proposito di tasse italiani. Pagina 3 della Stampa, ma anche pagina 7 del Secolo XIX, pagina 16 di Libero, l'ultima è questa dell'Agenzia delle Entrate. Il fisco avvisa 300.000 contribuenti con delle lettere, dimostraci che potevi pagare. Questo è il titolo che trovate sulla Stampa, pagina 3, con Sandra Riccio. Il blitz del fisco arriva col postino. In questi giorni moltissimi contribuenti, sono 300.000 in Italia in tutto, stanno ricevendo dall'Agenzia delle Entrate una lettera a dir poco preoccupante che riguarda i redditi del 2010. Nelle poche righe Attilio Befera, nostro direttore dell'agenzia, fa sapere al contribuente di aver rilevato spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati. Una specie di avvertimento che mette in guardia, come dire, il fisco ti sta guardando, c'è un radar puntato su di te, caro contribuente. E tra l'altro queste spese, che sono non in linea, sono operazioni non, che ne so, acquisto di beni di lusso, ma o di un elicottero, di uno yacht, ma anche, che ne so, la stipula di un mutuo, le rette scolastiche, il pagamento dei contributi previdenziali, peraltro dovuti per legge, insomma, roba da gente comune, tanto che ci sono molte persone che sono molto preoccupate a dire: cosa faccio adesso io? E beh, cosa fare? Il Secolo XIX mette anche la polemica su questo punto. Cosa rischia chi non risponde? Pagina 7 del Sole, redditi e tenore di vita 300.000 nel mirino. Scrive Carlo Gravina sul Secolo: se un cittadino riceve questa comunicazione, che può fare? La risposta è contenuta nella lettera, la risposta è questa. Si invita a chi trovasse errori o incongruenze a mandare una mail all'indirizzo, ve lo dico perché è una roba assurda, dc.acc.com@agenzieentrate.it, una roba, c'è scritto sulla lettera se l'avete ricevuta, oppure telefonando al numero 848 a pagamento. A pagamento, quindi se pensate di essere in regola e ci sono degli errori e delle incongruenze e non avete possibilità di segnalare via mail, potete telefonare a pagamento. Quindi comunque, anche se siete in regola, il vostro obolo per dire che siete in regola a pagamento lo dovete versare. Vabbè, tasse in Italia sono sempre tasse, e allora l'IMU e l'accisa sulla benzina, altre tasse molto amate dagli italiani. Allora, intanto l'IMU, e da oggi vi voglio segnalare l'iniziativa del Sole 24 Ore, SOS IMU, ebbene sì, perché mancano 18 giorni, 17 giorni, 17 per la verità, 18 giugno è la scadenza della prima rata dell'IMU, da oggi dunque sul Sole 24 Ore domande e risposte, oggi per esempio le trovate nella prima pagina del dorso Norme e Tributi, a pagina 19 del Sole 24 Ore, SOS IMU per capire che fare. Tutte le domande che avete sulla casa, come si paga questa amata tassa dagli italiani, le trovate sul Sole. Ed eccoci qui, tornare alla questione delle accise sulla benzina. Ricordate che il ministro Passera, allora, intanto avete elaborato quello che ha detto il capo della Protezione Civile Gabrielli, avete capito? Gli italiani hanno capito cosa succede con la benzina, ha detto. Hanno capito perché abbiamo dovuto farlo, hanno capito che devono pagare, questo l'hanno capito benissimo. E, ricordate, il ministro Passera all'aumento delle accise sulla benzina al Consiglio dei Ministri straordinari ha detto: però faccio un invito ai petrolieri. Cari petrolieri, magari ribassate i margini di guadagno sulla benzina, così potete compensare l'aumento dell'accisa e il prezzo della benzina può rimanere lo stesso. I petrolieri hanno risposto con il loro leader Pasquale De Vita: i petrolieri gelano Passera, anche noi siamo in crisi. E quindi pagina 8 della Stampa, ma anche pagina 4 del Secolo XIX, benzina, i petrolieri bocciano Passera. Il governo insiste, l'accisa non incida sul prezzo. Se uno vuole che l'accisa non incida sul prezzo, c'è un modo semplicissimo: basta non ritoccarla al rialzo. Invece fare l'appello a ritoccarla al rialzo e fare l'appello ai petrolieri, metteteci voi i soldi, i petrolieri hanno risposto così: siamo in crisi, purtroppo in questo momento i petrolieri sono in situazioni economiche disastrate. Noi abbiamo trasmesso il messaggio del ministro Passera e siamo fiduciosi che le aziende lo recepiscano. Cioè, come dire, facciamo anche noi, Passera fa un appello a noi petrolieri e noi leader dei petrolieri fa un appello alle aziende, vi giro l'appello, fate come potete, sappiate che però siamo in crisi anche noi. La politica si interroga su... la notizia del giorno di ieri era quella di Roberto Saviano, no? L'avevo detto sul Corriere della Sera, Roberto Saviano, la lista civica che potrebbe affiancare il PD. I giornali oggi dibattono su questo, Il Fatto Quotidiano con Luca Telese va a intervistare Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, colui che per primo forse ha messo il cappello su questa iniziativa, a dire in tempi anche più lontani scenda in campo Saviano. E Scalfari ovviamente dice: è giusto, senza Saviano la sinistra perde le elezioni. Fa niente che Saviano stesso abbia precisato dicendo non mi candido, oggi fa un intervento sull'Espresso dicendo non scendo in politica. Però dice anche Saviano: praticamente il mio mestiere è quello di scrivere, ma non rinuncio alla possibilità di costruire un nuovo percorso in questo paese. Come dire, non chiude proprio tutte le porte alla politica. Comunque Eugenio Scalfari dice: senza Saviano la sinistra perde le elezioni. C'è già all'interno del partito uno come Stefano Fassina, che fa due interviste sia al Fatto Quotidiano sia al secolo XIX, dice: non mi piace quest'idea, dobbiamo valorizzare il partito. Il concetto di Fassina è: qualcuno si vuole candidare nel centro-sinistra, entri nel Partito Democratico e si candidi nel Partito Democratico. Questa idea di una lista civica a fianco non si capisce di che cosa si tratti. Comunque la politica si anima su questo. E poi, cari ascoltatori, c'è tutta la vicenda del calcio, alla quale oggi dedico qualche minuto in più, perché la novità è quella che coinvolge, anche se non indagato, ma coinvolge con tutte le polemiche sui giornali, Gianluigi Buffon, che un giorno dopo aver fatto quell'uscita, quella sparata contro i PM, è stato tirato in ballo da un'informativa della Guardia di Finanza a Torino. La vicenda riguarda dei versamenti di assegni, in totale sono 14, di importi tra euro 50.000 e gli euro 200.000, un totale di quasi 1.600.000 euro che Buffon ha girato a favore di Massimo Alfieri, il titolare di una tabaccheria a Parma, abilitata tra l'altro alle scommesse calcistiche. E quindi tutti i giornali titolano così: shock Buffon, scommesse per 1.500.000 in 10 mesi, 14 assegni da 50 a 200.000 euro. Qui si parte da una frase di un giocatore che disse, Nicola Santoni, che diceva a un interlocutore un anno fa: c'è Buffon che gioca a 100-200.000 euro al mese, lui, Gattuso e Cannavaro sono proprio malati. Poi, interrogato, questo giocatore smentì questa frase. Sta di fatto che l'accusa è questa. Allora ci si divide in Italia. Intanto chi dice: con i soldi propri fa quello che vuole. Attenzione, le scommesse sono vietate per i calciatori nel mondo del calcio. Cioè, a meno che Buffon dica: scommetto sul basket, come ha detto Stefano Mauri in carcere sul Messaggero, la versione di Mauri, capitano della Lazio: puntavo, scommettevo, ma sul basket. E quindi, insomma, è tutto regolare se è sul basket. Oppure, che ne so, qualcuno ironizza: scommette su quanto vivrà ancora la regina d'Inghilterra. Tutto lecito. Non è lecito invece, perché la federazione impedisce ai propri tesserati di scommettere sul calcio. È anche abbastanza evidente, cioè, che Buffon non possa scommettere su partite di calcio. C'è chi dice: ma come, è una coincidenza strana. C'è il Fatto Quotidiano, è una coincidenza strana, cioè lui attacca i PM, il giorno dopo viene fuori questa informativa, no? Proprio casuale. Per esempio Andrea Agnelli, intervistato oggi sulla Stampa, il presidente della Juventus, lo dice chiaramente, a pagina 40, intervistato da Massimiliano Nerozzi: che strano, proprio il fatto in cui Buffon non è indagato, parla contro i PM, il giorno dopo esce questa informativa. C'è chi si divide, come il Fatto Quotidiano, pone questo obiettivo: ma bisogna andare agli europei o no con questa nazionale disastrata? E c'è chi dice sì, come Olivero Bea, c'è chi dice no, come Giancarlo Padovan. Certo, il problema c'è chi chiede l'esclusione di Buffon a questo punto. C'è invece Mimmo Criscito, con lui concludo, intervistato da Enrico Currò per la Repubblica, pagina 57: sono solo il capro espiatorio di tutto, sono stato cacciato dall'europeo per nulla. Parla per la prima volta con la rabbia Mimmo Criscito, indagato, parla un po' di tutta questa vicenda e dice: hanno tirato in ballo me, non sono innocente, dimostrerò tutto, ma intanto mi hanno tolto gli europei. Chissà. 24 mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti in questo istante. Allora, siamo in onda con il sindaco di Civitavecchia, nonché onorevole del Partito Democratico, Pietro Tidei. Buongiorno onorevole, eccoci qua. Buongiorno. Allora, sindaco e onorevole, lei è diventato sindaco alle ultime amministrative, le posizioni sono incompatibili per legge, quindi lei deve decidere. E ha già detto che deciderà, però qui si è aperta una diatriba, perché ancora mantiene le due cariche? Perché la diatriba probabilmente è stata avanzata da gente che non conosce le leggi, i regolamenti, e le dico anche perché è un po' ignorante, perché è molto chiara, lei sa che la legge intanto prevedeva la piena compatibilità di sindaco e deputato, sì. Quindi soltanto una recente sentenza della Corte di Costituzionale ne ha stabilito la incompatibilità. Sì, per chi era già, cioè c'era la compatibilità strana, chi era deputato strana, poteva diventare sindaco. No, la compatibilità di legge, non è strana. No, che nel senso legge. Che chi era sindaco, era onorevole, poteva fare il sindaco, chi era sindaco non poteva candidarsi sopra una certa... Perfettamente, come ho fatto io quando ero sindaco, mi fui costretto a dimettermi, quindi non è sana, era la legge. Era la poi legge. Ovviamente la Corte Costituzionale ha riportato in chiarezza questa situazione e ha stabilito la incompatibilità. Oggi ci sono le regole, no, per la incompatibilità, che sono molto chiare, precise, che sono quelle che sto seguendo, e cioè che adesso la Giunta per le elezioni e il Comitato per l'incompatibilità prima, una volta rilevata la sussistenza della causa di incompatibilità, scrivono prima il Comitato, poi la Giunta, al Presidente della Camera, il Presidente della Camera scrive al deputato. Cioè la procedura, è un po' strano però, cioè voglio dire perché lei continua a dire strano? No, dico... è la procedura di legge. Voglio dire, poi, la procedura di legge. Per lei va bene. No, ma nel senso stabilire l'insussistenza, cioè si sa che per legge è incompatibile. Infatti la debbono rilevare, non è che si sa. Allora, intanto per legge non è vero, le sto dicendo per legge no, ma per una sentenza Corte Costituzionale. E va bene. Che fa giurisprudenza però, no? Bravo, infatti si stabilisce, le regole sono chiare, sono chiarissime, sì. Le regole sull'incompatibilità sono chiare, sono scritte nella legge, questo sì. Ma chi sono gli ignoranti che dice che hanno tirato fuori i sacci? No, intanto c'è stato un ignorante che in televisione continua a dire che percepisco due stipendi, questo non posso percepire. Come questo no? L'hanno detto in televisione. Cioè questo no, nel senso lo ribadisco, questo non è vero, lei percepisce solo uno allora stipendio. Le dico subito perché. Intanto io sto seguendo pedissequamente la legge e siccome qualcuno ha fatto un riferimento al codice etico, credo che la vera etica è il rispetto della legge e non la voglia smaniosa di andare a occupare una poltrona. La seconda questione, le dico qual è la motivazione vera. Siccome io prima ancora di essere nominato e prima ancora di essere addirittura insediato già imperversava sui blog una valanga di richiesta di dimissioni, io non mi ero ancora insediato, lei pensi? Sul piano umano che razza di carogne, posso dire, lo dico con grande chiarezza, mentre mi bruciavano la macchina dopo due ore la mia dichiarazione di elezione, mentre venivo accompagnato da carabinieri a casa per tutelare la mia incolumità e riceve la solidarietà da parte di qualcuno, imperversava sui blog l'invito a dimettere immediatamente. Allora, ancora non ero neanche letto. Diciamolo chiaro, lei ce l'ha con Mario Adinolfi? Che cioè, nel senso, lei ce l'ha con Mario Adinolfi che subentrerebbe a lei in Parlamento. Figuriamoci, io non ce l'ho con nessuno, dico solo che vedo una smania è la prima volta che succede una cosa in Parlamento. Se lei va alla commissione dell'incompatibilità in Parlamento, tutti dicono che è la prima volta che succede un fatto del genere, cioè tanta smania di andare a impossessarsi di una poltrona peraltro formalmente contestata. Ma le sto dicendo che la cosa drammatica era questa, che mentre appunto io non solo c'è questa situazione a Civitavecchia, quindi anche di sicurezza se le vuole, bruciano la macchina, ma io ho trovato un buco di 31 milioni di euro, un buco, non un debito solo, spese non coperte per 31 milioni di euro, un bilancio in dissesto, sto tutti i giorni correndo a cercare di trovare un po' di soldi. A maggior ragione dice dovrebbe dimettersi subito spontaneamente per occuparsi solo del comune, no? Ma senta, io non so se lei... se lei mi fa parlare forse ci capiamo meglio. Allora le sto dicendo che mentre sto cercando i soldi per evitare il dissesto finanziario, perché se io entro il 30 di giugno, abbiamo chiesto la proroga al 31 di luglio, non approvo il bilancio, il ministero mi scioglie il consiglio comunale. Appunto, no, ma questo le sto dicendo, sindaco, le ruberà un po' di tempo a fare il parlamentare. Se io mi dimetto oggi e mi sciolgono tra dopodomani il consiglio comunale, significa che io non sono né parlamentare né sindaco, forse loro riesco ecco, a farmi spiegarle ecco, meglio. Questo, lei sta aspettando, rischia di rimanere senza nessuna delle due poltrone. No, non dico niente, io sto aspettando di verificare la sussistenza e la consistenza soprattutto dell'enorme buco che ho trovato rispetto ad una mala gestione precedente, anzi una gestione folle, dico io, per verificare qual è l'esatta situazione. Siccome la legge mi consente 30 giorni dal ricevimento della lettera del Presidente della Camera per optare, in quel momento se sarò riuscito a risanare il mio bilancio, cioè a trovare i soldi che hanno sperperato, no, ma su questo, io su non questo, voglio fare no, su questo devo dire è un timore legittimo il suo, ce l'hai dice lei, ma no, il timore, ma se che lei non mi fa finire, come fa a capire se è un timore legittimo? Le stavo dicendo soltanto, mi scusi, poi ho finito, non parlo più, le sto dicendo se io non riesco a risanare il bilancio e quindi mi sciolgono il consiglio o addirittura devo dichiarare il dissesto, lei capisce che io non voglio stare a fare il commissario liquidatore di un comune che carichi di debiti. Chiaro, infatti questo dicevo, allora, che era legittimo di optare entro i 30 giorni, cosa che farò, perché io non voglio stare un minuto in più una volta che ho risanato. Sa che però che... le critiche che le fanno è che il minuto, lei dice io sto facendo tutto secondo la legge, ma il minuto in più secondo molti è il minuto in più dal giorno in cui è stato eletto sindaco. No, cioè, non è vero, ma lei avrebbe potuto è una ignoranza totale di giornalisti che non conoscono. Lei avrebbe potuto come scelta dire mi dimetto, poi la Camera sceglie se votasse accettare le dimissioni di una persona. La Camera segue le leggi, mi dimetto quando il Presidente mi comunica la sussistenza di una causa di incompatibilità e mi invita a scegliere entro 30 giorni, questa è la legge, non capisco perché c'è gente che spasmodicamente vuole assolutamente insediarsi prima. Questo non lo capisco francamente. Senta, e le dico di più, sì. C'è una causa legittima che è quella che non ho trovato un bilancio normale, ho trovato un bilancio dissestato, forse lei questo non lo sa. Aspettiamo i tempi e siamo tutti tranquilli. Però, sindaco, lei inizialmente aveva fatto le dichiarazioni anche a dire devo seguire dei provvedimenti che riguardano Civitavecchia in Parlamento, cioè la questione del tribunale. C'è un suo collega, Andrea Sarubbi, che ha detto mi presto io a fare da longa manus, utilizziamo questo termine, cioè di seguire questi provvedimenti per il sindaco in Parlamento. Allora, quindi si dimette a questo collega che conosco poco peraltro, non so perché. Suo collega di partito. Visto che Adinolfi disse quando ci furono le elezioni regionali che io ero il migliore amministratore del Lazio insieme a Carella, per questo che avrei dovuto essere assessore. Non capivo perché per una persona che non conosco mi dicesse che ero tanto bravo, poi ho capito che lui era il primo dei non eletti, quindi già voleva da allora subentrare. quello. Quindi, voleva farla sloggiare, si sposta. No, ma la cosa è diversa, dovrebbe dire al collega Sarubbi che ieri sera io ero dal ministro Clini e sono riuscito a farmi promettere dal ministro Clini che la discarica a Civitavecchia a Lumiere non si farà. Forse se fosse stato presente Andrea Sarubbi sarebbe stato utile, ma non l'ho visto. Ho capito, quindi... ma questo lo può fare anche da sindaco, non c'è bisogno di essere parlamentare. Se lei mi consente, un parlamentare o un sindaco è molto molto diverso, ma ripeto, non è questo il problema. Io adesso sto seguendo la questione del tribunale fino a che ho il tempo per farlo, cioè nel momento in cui io avrò reperito questi soldi, avrò ottemperato perfettamente alla norma, non rimarrò un minuto. Ma guardi che nessuno l'accusa di fare una cosa illegale, semmai di una questione di dire, insomma, di fare un po' melina, La sta facendo lei melina perché lei si sta prestando alla smania. Credo incredibile che la prima volta si è verificato in Parlamento di un soggetto che al di fuori della legge pretende che un parlamentare si dimetta al di fuori delle norme. No, però su questo la tranquillizzo, non mi presto a nessuno, io faccio le domande, faccio il giornalista. Non faccio mica la longa manus di Adinolfi. Ma credo che un po' di longa manus ce l'ha, perché se no, io le dico solo questo, che un giornalista molto noto in televisione a Zagorà, dimostrando una totale ignoranza, dice perché quello vuole prendere due stipendi, sapendo che non prendo nessun stipendio. Lei pensi che in Francia i sindaci addirittura fanno i ministri? No, è vero, lo so. Prendiamo sempre dall'estero. Addirittura c'è una mia proposta di legge fatta in tempi non sospetti, che prevede assolutamente la piena compatibilità delle due. Vabbè, comunque, la mia proposta di legge. Sindaco, seguiremo la sua vicenda. Quando, in base a tutti i crismi della legge, arriverà il giorno, la chiameremo. Va bene. Ah, sì, lei deve stare tranquillo e tranquillizzare il giocatore di poker di professione, che per quanto mi riguarda ho 42 anni di presenza nelle istituzioni in piena trasparenza, e d'altra parte vengo eletto anche per questo. Tenga presente che io sono stato il sindaco più votato d'Italia nel 98, quindi la mia, non c'ho nessun attaccamento, perché se avessi questo attaccamento, e finisco qui, quando ho accettato la candidatura al Comune di Civitavecchia sapevo benissimo che la mia carica era incompatibile, quindi lo sapevo già da allora. Però siccome ho trovato una situazione drammatica, ripeto drammatica, non so se ancora starò in questo comune, lo capisci adesso ancora? Sì, mi pare chiaro. Intanto la ringrazio, giocatore di poker, per chi non sapesse, Mario Adinolfi. Grazie sindaco. Di professione. Cioè, anche quella è una professione, sa. Grazie, buona giornata. Pietro Tidei, sindaco di Civitavecchia, onorevole del Partito Democratico, ci fermiamo la pubblicità del meteo e poi i soldi ai terremotati, qualcuno ha detto, non è che li dovrebbero versare i partiti magari pescando nella tranche di luglio del finanziamento pubblico? 24 mattino. Allora, alle 8:38 minuti, eccoci qua con due onorevoli che ritornano nostri ospiti per parlare del tema, insomma, finanziamenti ai partiti, nel senso di molte persone dicono: ma perché non troviamo un po' di fondi per aiutare i terremotati in Emilia dai finanziamenti ai partiti, magari la famosa tranche di luglio, i partiti diano i loro soldi ai terremotati, altro che accise sulla benzina, altro che provvedimenti che colpiscono poi nel portafogli tutti gli italiani. I nostri ritorni, saluto l'onorevole Antonio Misiani, eccoci qua, tesoriere del Partito Democratico, buongiorno e ben ritrovato onorevole. Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto anche l'onorevole Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori, ben ritrovato anche a lei. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Borghesi, intanto l'Italia dei Valori dice: noi daremo i soldi ai terremotati, che vuol dire? Cioè, quanti sono, cosa farete? Prenderete l'assegno, li darete ai terremotati? Ci dica che non è demagogica questa cosa. Assolutamente, noi abbiamo fatto una conferenza stampa l'altro giorno per dire appunto che la tranche finale, ultima del rimborsi elettorali, per quanto ci riguarda è che circa di 2 milioni di euro, noi la incasseremo, perché se non la incassiamo verrebbe suddivisa tra gli altri partiti, quindi la dobbiamo incassare. Immediatamente la trasformeremo in un assegno circolare che andremo a distribuire ad un soggetto che dobbiamo identificare che ci garantisca che poi quei soldi finiscono davvero per gli interventi necessari, più urgenti per i terremotati. Quindi dare i soldi ai terremotati. Ma voi avete detto dovrebbero farlo tutti i partiti? Noi abbiamo detto, complessivamente sono circa 100 milioni di euro, se tutti i partiti facessero la stessa cosa, credo che sarebbe un fatto molto positivo, perché dimostreremo in questo caso che c'è anche un intervento, una rinuncia diretta della politica a favore di persone che in questo momento hanno grandi sofferenze e credo grandi bisogni per rimettere in piedi anche un'economia che è stata distrutta da questo evento. In ogni caso 2 milioni. Io vorrei ricordare il numero anche per intervenire in diretta, 800 24 00 24. 2 milioni è la cifra ovviamente che l'Italia dei Valori, che compete all'Italia dei Valori. Onorevole Misiani, lei che è anche tesoriere del Partito Democratico, spesso si dice è un provvedimento che non si può fare anche perché i partiti questi soldi li hanno già investiti, magari scontati in banca con fidi, con mutui. Intanto come accoglie la proposta in generale e se è fattibile nel particolare? Ma guardi, noi abbiamo approvato alla Camera un disegno di legge che dimezza i fondi per i partiti e destina i risparmi del 2012 e del 2013, 160 milioni di euro, ai terremotati. Basta approvare rapidamente al Senato, senza modifiche, questa legge, e lo si può fare in pochissimi giorni per dare alle località colpite da calamità naturali una cifra molto molto consistente, al di là di quelle che sono le proposte che ciascun partito vorrà fare. Poi se l'Italia dei Valori vuole rinunciare a tutti i rimborsi che dovrebbe incassare nel luglio del 2012, che però mi risulta siano 11 milioni di euro e non 2, andrà a merito dell'Italia dei Valori, però basta approvare questa legge e noi possiamo destinare 160 milioni di euro alle località. È stata una proposta del Partito Democratico, sì. È stata accolta in sede di discussione dalle altre forze politiche, ne siamo lieti, si approva questa legge e i risparmi del 12 e del 13 vengono interamente destinati, e sono risparmi consistenti, ai terremotati e a chi è stato colpito da calamità naturale. Però prima di capire, allora, se sono 2,11, mi faccia capire, 160 milioni se si approva questa legge in via definitiva è perché è il frutto del dimezzamento dei tagli, però si potrebbe a questo punto dire rinunciamo a tutto e quindi raddoppiare questa cifra di 160 milioni, è possibile quindi farne 320 di milioni. Anche a quell'altra metà che rimane, il Partito Democratico e gli altri partiti, secondo lei, sono pronti a rinunciare in virtù di questo evento straordinario, oppure così è troppo? Ma questo lo vedo più complicato. Noi abbiamo dato il segno che se l'Italia tira la cinghia, la politica deve, e i partiti la devono tirare due volte. Non c'è nessuna voce di spesa pubblica che verrà tagliata come i fondi destinati ai partiti. Con la scelta della nuova legge, i fondi destinati alle forze politiche italiane saranno molto ma molto inferiori in termini pro capita quanto previsto in tutti gli altri paesi europei, perché in tutti i paesi dell'Unione Europea sono previsti finanziamenti pubblici, risorse per fare politica. Quindi noi abbiamo fatto una riforma strutturale che cambia radicalmente il modo in cui questi fondi vengono erogati, li dimezza e li sottopone a controlli molto rigorosi. Poi nell'immediato abbiamo destinato una cifra molto consistente alle zone colpite da calamità naturale, destinando peraltro gli altri risparmi alle maggiori detrazioni per le ONLUS, quindi i soldi risparmiati da questa legge sostanzialmente vanno ai terremotati. Dice, non chiedeteci troppo, dice, noi abbiamo già tirato abbastanza, lo Stato faccia la sua parte. Mi sembra che per esempio, non so, Bondi, il super commissario, deve scegliere questi 4,2 miliardi di euro di revisione della spesa entro giugno? Lei forse guardi, sta dicendo facciali... Posso fare una proposta, visto che siamo su Radio 24, che è la radio di Confindustria. In questo paese 22 miliardi di euro ogni anno vanno al settore privato. Molti di questi soldi vengono spesi bene, altri ho il forte sospetto invece che non producano occupazione, non producano benessere. Quello per esempio è sicuramente un settore in cui intervenire con controlli, con certificazione, con trasparenza. E di voci 800 miliardi di euro di spesa pubblica se ne possono trovare parecchie. Ma il settore privato in che cosa, cosa intende? Vuol dire imprese private, finanziamenti spesso dati a pioggia, scandali che si sono ripetuti negli anni. C'è da fare trasparenza su tutta la spesa pubblica. Dice risparmino lì, risparmino anche lì, perché no? Perché no? Va bene. Siamo sulla radio di Confindustria, quindi l'hanno ascoltata. Li hanno ascoltato. Risparmiamo lì, risparmiamo anche su altri settori. Vedo che Confindustria è molto sensibile, giustamente, come l'opinione pubblica, sui fondi che vanno ai partiti. La trasparenza va fatta su tutta la spesa pubblica. Su tutta la spesa pubblica. Senta Borghesi, intanto ci aiuta a capire, sono 2 milioni, 11 milioni, qua Misiani è uno che è abituato facendo il tesoriere ad avere i calcoli sotto mano di tutti. No, semplicemente sono in commissione bilancio della Camera. Borghesi. Sì, dica, il dato che riguarda noi, io lo vedo citato dal nostro tesoriere, l'onorevole Mura, in 2 milioni di euro. E come ho detto li consegneremo direttamente a terremotati e amministratori locali dell'Emilia Romagna, questo è sicuro. Noi però abbiamo fatto anche un'altra cosa, noi abbiamo già depositato in commissione bilancio la risoluzione che servirebbe per dare attuazione alla cosiddetta legge Mancia, che è una legge, pronto? Sì, la sentiamo. Sì, che è una legge non... Quella per distribuire, distribuire i soldi a pioggia. Veramente vergognosa per dare modo in modo clientelare sul territorio, su indicazione dei singoli parlamentari, degli interventi anche minimali. Lì ci sono ancora 150 milioni non distribuiti, noi abbiamo sempre rifiutato questa logica e la quota come nostra competenza l'abbiamo destinata ad ammortamento del debito pubblico. Ecco, noi abbiamo depositato una risoluzione che, se approvata, permetterebbe immediatamente di trasferire questi 150 milioni ai terremotati dell'Emilia. Credo che anche questa sarebbe una cosa positiva. La legge Mancia. Vediamo se gli altri partiti accettano. Che fare? Però rimane un po' questo mistero. Adesso non abbiamo qui il tesoriere onorevole Silvana Mura, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, ma insomma sono 2 milioni o 11 milioni adesso, io non lo so. Misiani, che sta in commissione bilancio, dice che sono 11 milioni quelli destinati all'Italia dei Valori, lei ci dice che sono 2 milioni. Comunque la tranche di luglio, quello che sarà, spero sia quella completa, la girerete ai terremotati. 800 24 00 24, vorrei dare la parola a Guglielmo da Bologna, ci ha chiamato. Guglielmo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Volevo dire che i partiti mi sembrano persino patetici con questo gesto che vogliono fare. Quale gesto? Il gesto di devolvere il denaro ai terremotati. Perché patetici? Perché? Patetici per un semplice motivo, per la estrema facilità con cui loro possono disporre di questo denaro, quando io vorrei ricordare a tutti, terremoto a parte che è una disgrazia terribile, vorrei ricordare che le aziende stanno fallendo perché non gli arrivano i soldi dello Stato, ma i partiti sono disponibili così, cash, in 5 minuti. Questo è vergognoso. Grazie Guglielmo, giro la considerazione onorevole Misiani. Onorevole Misiani, come la fate per i cittadini italiani? In questo momento la sbagliate, l'onorevole Misiani è caduta la linea, lo recuperiamo anche per la storia delle aziende. Onorevole Borghesi, vuol rispondere lei, insomma, come la fate la sbagliate? Patetici, dice. Io parlo del mio partito, vedo quello che stiamo facendo. Noi, come dico, avevamo già deciso di rinunciare alla nostra ultima tranche di rimborsi, avevamo deciso di darli a scopi di natura sociale, può darsi che sia questo, degli 11 milioni c'era una parte già destinata a scopi di natura sociale, 2 no, milioni... No, ma capisce, ma la gente, come vede, non anche sì, molti messaggi arrivano, la gente non ne può più, sembra l'elemosina d'accatto da parte di la quei... La gente ha assolutamente ragione. Cioè da parte di quel sistema che ha creato poi la situazione attuale, non il terremoto ovviamente, ma la situazione attuale. Non c'è dubbio che la gente abbia ragione. Io non so, non posso certo dar torto a chi dice ma come, le aziende non ricevono i soldi dallo Stato e i partiti ce li hanno lì pronti, è una cosa certamente scandalosa. Per quanto ci riguarda, noi come è noto abbiamo raccolto anche le firme e le raccoglieremo anche per un referendum che abolisca anche questa nuova legge che lascia comunque dei soldi alla fine ai partiti. E ci stiamo attivando per cercare di andare incontro a quello che chiede la gente. Naturalmente, come sempre, la nostra forza non è da sola sufficiente per poter andare a deliberare in Parlamento. Noi abbiamo fatto anche un'altra cosa, abbiamo depositato ieri un'altra risoluzione, perché la Cassa Depositi e Prestiti, che è una società pubblica, ha ieri approvato il bilancio con 800 milioni, più di un miliardo di utili, dei quali una quota sotto forma di tasse va allo Stato, e noi chiediamo che almeno 250 milioni di queste tasse che andranno allo Stato siano ancora una volta destinate anche queste ad affrontare i problemi. Ma lei dice l'Italia dei Valori ci prova, ma siete forze di minoranza, però io vorrei tornare per un attimo, l'abbiamo recuperato l'onorevole Misiani, onorevole, non so se ha sentito il nostro ascoltatore Guglielmo, dice siete patetici voi politici, effettivamente anche lei dice andiamo a pescare nei 22 miliardi che il settore privato prende a pioggia. Ma però... non è che lo dico io, lo fa anche come... Lo fa come proposta, però, però le chiedo questo, Misiani, mi scusi, nel momento in cui il sistema produttivo, tra l'altro, recrimina, ha giusta ragione peraltro, il fatto, come ci dice Guglielmo, ci sono imprese strozzate che non prendono soldi dallo Stato, che lavorano per lo Stato e prendono i soldi a 1000 giorni, a volte quando va bene, lei dice andiamo magari a toccare anche quel settore lì, laddove invece, dice Guglielmo, patetici il sistema politico che ha generato la situazione in cui c'è in 20 anni di mala politica, di malaffare, in cui ci siamo trovati e ci troviamo a sguazzare oggi. Invece bisogna guardare altrove. Ricordo che il presidente del Consiglio Monti ha nominato Francesco Giavazzi, editorialista del Corriere della Sera ed economista, con il compito di tagliare e razionalizzare i contributi alle imprese. Uno dei commissari. Quindi il problema esiste e nemmeno Confindustria ha messo in discussione la nomina di Giavazzi. Secondo punto, quanto dice Guglielmo sui pagamenti della pubblica amministrazione è assolutamente vero. Io ho presentato per esempio un disegno di legge nell'ottobre del 2010 sul tema dell'attuazione della nuova direttiva comunitaria sui ritardi di pagamento. Abbiamo raccolto insieme a imprese che resistono firme di centinaia di imprenditori per sollecitare regole nuove su questo fronte, abbiamo incalzato il governo che adesso oggettivamente si sta muovendo, c'è una direttiva che stabilisce regole severe per la pubblica amministrazione ma anche tra le imprese, perché c'è un problema enorme di ritardi di pagamento delle grandi imprese nei confronti delle piccole imprese che sono strozzate e fanno da banche, bisogna agire, attuare la direttiva, il governo ha detto che la recepirà in anticipo rispetto alla scadenza di marzo del 2013 e noi saremo attorno comunque al governo per fare questa la cosa importante che lei sostiene e dice noi partiti ci siamo già tagliati con questa legge posso dire una metà. Cosa è il Parlamento che sta facendo chiaro. Una legge per destinare questi risparmi alle onlus e ai soggetti colpiti da calamità naturali. Io rifiuto la logica per cui i partiti incassano i soldi e benevolmente li devolvono. Cioè, a quindi l'Italia dei Valori cosa fa? Demagogia? L'Italia dei Valori fa una scelta che è legittima. Io invece ritengo che vada fatta una legge. Il Parlamento, che è l'organo costituzionale che è chiamato a gestire le risorse dei cittadini, deve fare una legge e dire: dimezziamo i soldi che vanno ai partiti e destiniamo questi soldi alle onlus piuttosto che al terremotato, piuttosto che allo Stato. Lo faccia il Parlamento. Io qua mi fermo e vi ringrazio l'onorevole Antonio Misiani del Partito Democratico, anche il tesoriere, e Antonio Borghese, onorevole dell'Italia dei Valori. E che dire, ci fermiamo per questa settimana. Trovateci su Twitter @AlinoMilan @24mattino. A lunedì. Un parlamentare che partecipa a tutte le sedute di commissione, apre un ufficio, riceve gente, mi creda, a tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma. Io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.